Tabacchino ancora aperto, anche se fuori freddo. Notte dal futuro incerto, cellulare spento. Preparo una tisana calda, che sta arrivando l'ansia. Le subaffitto la mia stanza, e adesso dormo solo su una panda. Siamo pure al verde, e quindi che facciamo? Ci vogliamo bene, come le cose che fanno male. Ci vogliamo bene, come la musica commerciale. Ci vogliamo bene, come lo zucchero con il sale. È pronto da mangiare? Ho fatto un giro su me stesso, mi sono perso. Mi sono ritrovato a caso, sopra il tuo letto. Ho messo anche le tue risate dentro il carrello. Guardiamo la luna stasera, ti pago io il biglietto. Ma adesso siamo al verde, e quindi che facciamo? Ci vogliamo bene, come le cose che fanno male. Ci vogliamo bene, come la musica commerciale. Ci vogliamo bene, come lo zucchero con il sale. È pronto da mangiare? Yeah, hi, this is Vince calling from Tony's Pizza. Your pizza is up for delivery, but we're having problems with your credit card. Avanti. Siamo ancora un po' ignoranti. Preferisco restare da solo, stiamo distanti. Ma ci vogliamo bene, come le cose che fanno male. Ci vogliamo bene, come la musica commerciale. Vogliamo bene, ed è un casino eccezionale. È pronto da mangiare, ed io non ho più fame.